140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Padri e figlie. Ancora un film americano per Gabriele Muccino. Nel sistema Hollywood puoi anche scrivere i tuoi film, ma di fatto i tuoi agenti ti fanno leggere sceneggiature che tu a volte non riesci a leggere perché sono troppe o perché sono brutte, e poi te ne capitano alcune che invece sono speciali. Quando ho letto questa sceneggiatura ho pensato che fosse unica, scritta in un modo sublime, raccontasse la storia di noi umani, la genesi della vita che diventa poi la nostra età adulta, cioè proprio come da bambini ci portiamo dentro le nostre infanzie e non riusciamo mai a disfarcene in qualche modo. E il film racconta attraverso Russell Crowe, che è il padre di questa bambina, quanto questa bambina che il padre ama incondizionatamente, ed è un padre eccezionale, ma perché è malato e perché altri problemi incorrono, lei subisce, comunque ha un'infanzia dolorosa che ne fa una donna che non sa amare o ha paura di amare, ha letteralmente il terrore di essere abbandonata, il terrore della perdita della persona amata, e in qualche modo cerca costantemente, subconsciamente, stavo traducendo, no, a volte faccio degli strafalcioni incredibili perché traduco dall'inglese ed è terribile quello che viene fuori. Dicevo che il personaggio di Amanda Seyfried cerca un padre che non riesce a ritrovare, non può ritrovare, e questa presenza del padre la perseguita in qualche modo, in un modo anche salvifico, però di fatto è ciò che inizialmente le impedisce di vivere realmente la vita da donna piuttosto che da eterna figlia, eterna bambina. Non posso credere di avere una figlia che mette il ketchup sopra un hot dog. Non ti piace il ketchup? Sugli hamburger, sulle patatine fritte, ma sull'hot dog è ridicolo. Ma io sono diversa dagli altri. Eh sì, molto diverso. È un periodo in cui al cinema, ma non solo, si stanno scoprendo tante belle storie di paternità, perché forse a scrivere libri, sceneggiature, ci sono i figli degli anni 60 e 70 e che quindi vivono la paternità in maniera più consapevole, più attenta, anche con meno vincoli rispetto ai nostri padri. Tu cosa pensi di queste storie di paternità? Quello che dici è presumibilmente molto vero, ora non ci avevo mai pensato, ma è vero che la nostra generazione è comunque la prima generazione a non venire da quella formula di famiglia tradizionale con il padre in qualche modo al centro a capo tavola, che aveva l'ultima parola sulla famiglia, ma siamo figli di una famiglie in cui le donne hanno per la prima volta sentito che la storia le incaricava di dover avere controllo sulle loro vite. Saluta papà. Devo davvero andare? No. Tornerò presto, promesso. Tu sei la mia patatina. Solo tu e nessun altro, chiaro? Sei tutto quello che ho. Ti fa più paura, ti dà delle sensazioni diverse avvicinare il pubblico italiano a quello americano? Le uscite in sala ti danno delle emozioni, delle preoccupazioni diverse, o è la stessa cosa? Beh, no, quello italiano ci tengo molto di più. Cioè, il pubblico americano non lo conosco. Cioè, io faccio film con il cuore italiano, con l'anima italiana, a modo mio fondamentalmente, per cui quando vanno in sala, anche quando escono in 3.000 copie o 3.500 come è successo, non è un fattore a cui poi rispondo con una emotività pari a quella che invece mi travolge quando invece i film escono nel mio paese, dove c'è la mia cultura, la mia gente e le mie radici. è il mio presente, poi, perché anche se sono fisicamente spesso altrove a fare film, di fatto io continuo a essere qui. L'Italia è un paese che non perdona il successo a nessuno, soprattutto non perdona il successo a nessuno all'estero. E quando esce un tuo film c'è sempre la polemica: fai film all'estero, dovrebbe tornare, non dovrebbe tornare più. Tu queste cose le leggi, salti le pagine, te ne interessi? No, salto spesso le pagine, salto francamente. Mereghetti su Corriere della Sera mi invita a tornare in Italia a fare film in Italia, ma Mereghetti... Forse molti non sanno, ma io lo so bene, che mi ha sempre stroncato quando facevo film in Italia. Per cui oggi vuole farmi tornare, ma non capisco cosa io abbia perso, visto che comunque L'ultimo bacio era un pessimo film per lui allora. Quindi, purché i film vengono visti, va bene tutto. I film vengono fatti per essere visti, per cui francamente sono anzi, in quella lettera di Mereghetti c'era anche moltissimo rispetto nei miei confronti, apertamente dichiarato, per cui sono continuo a ritenermi comunque un regista enormemente fortunato, perché ho raggiunto il cuore comunque di forse di miliardi di persone, perché alcuni dei miei film sono conosciuti letteralmente dallo Sri Lanka all'Argentina al Nord America, per cui insomma in questi casi cosa puoi dire, insomma hai avuto dalla vita comunque il massimo che tu potessi mai sognare di avere come regista. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gabriele Muccino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.